c'ho gli occhiali e gli occhi fuori dalle orbite. Nel cielo il riflesso di questo treno soppresso, di mi ha già preso possesso, mi tiene acceso e depresso. Visioni torbide, previsioni sordide, mi spingono a sostanze nelle stanze più recondite di un mondo di cui proprio non comprendo il disegno, di cui so solo che da sobrio mo sto scendo di segno. Io sono in un corridoio che porta all'obitorio, coi segni del rasoio, il numero di un consultorio. No, tu non ci consoli, nasciamo e moriamo soli, e la nostra storia ripete a memoria il memento mori. E se vado ai 200 buoni è per le carezze del tetto, che dovrebbero stare dove ho carenze d'affetto. Ma ora che anch'io sono un reietto, non mi sento più le gambe, non mi sento più del sangue, niente batte nel mio petto. Non avere fretta di colpirmi il corpo, di tagliarmi il volto all'ombra della camera. Legami al tuo cielo con fili d'argento, uccidimi nel grembo ancora prima della nascita. Fammi lavanda gastrica, perfora il mio odio fatto in plastica. Diluvia sugli umani senza inganno, dissolvi inchiostro da testi sacri. Perdona lo spirito dei più magri perché non sanno quello che fanno. Imprigionami in un limbo elettrostatico dell'essere mio sadico. In questo clima arido ho bisogno di lacrime solubili che sciolgono il colore dalla pelle per l'oscuro tenue grigio del mio sogno. E ad ogni goccia un altro passo nelle carni, un altro gancio, piove sangue verso il basso, nubi scure sul trapasso, verso il flusso ciclico che già mi ha reso pazzo, in un trip mentale che ha spento i raggi di un sole guasto. Di espressione, inganno la tristezza costante come il ricordo che mi spezza. Perso in flashback colmi di amarezza, coprono il prologo della mia esistenza e pulsa sempre meno, bagnato da sto cielo, cupola di vetro senza vita, freddo estremo, mente tremo al pensiero di un mondo ultraterreno. Con ciò che vedo preferisco essere cieco, senza chiave di lettura, destino serratura, bagna piedi in bilico tra asfalto e spazzatura, testa in usura tra visioni mistiche e paura, condizione dura, testimone sotto tortura. Ormai respiro radioattivo mentre scrivo, senza immaginare un altro rigo, senza un filo, tragicamente fino a strade che non guido, senza risposte trainanti a domande del perché mi uccido.